Prova a toccare il microfono, ma sei basso. La batteria ce l'hai. Attacca il timer, attacca. Ci siamo. È a voglia che ci siamo. Come NSO2M? Cosa? Il microfono è come NSO2, la rotellina e il pomellino. Sì, a voglia, la salita così, Tassaro. Ok, allora lascio questa batteria, sembra buona questa. Sì, sì, a quanto ce l'hai la distanza dalla bocca, dal microfono? 20 centimetri, viaggio in mano il microfono. Prova a appoggiarlo sulla scrivania già. E aspetta che lo fisso bene. Mia radio. Eccoci qua. Guarda a vedere, prova. Sulla scrivania ce l'hai. K, prova, 1, 2, 3, prova, becco, San Pia, Golfo della Sinara. Lascialo così che è un treno, boh, non tocca nulla, è bella lineare, funzionando sta. Sì, sta funzionando, ma anche l'SV meter mi segna 5, l'altro 0,2. Ok, allora, già, hai visto la rotellina del microfono? Ehi, dimmi. Mettila, passala poco poco. Così, 1, 2, 3, prova, brecco. Fai un passaggio. Prova, 1, 2, 3, prova, San Pigo, fuori la Sinara, brecco, cambio. Allontanati appena dal microfono. Cosetti? Allontanati appena dal microfono. E tu mi devi allontanare un mezzo. E allora devi abbassare, secondo me, l'amplificazione. Cappa di Roger, la vabbè scemo tutto. Non mela, perché dipende come parli tu. Allora, devi cercare di parlare o gridando o troppo basso, nel senso che un tono lo devi avere, perché se noi ti facciamo il microfono alla tua modalità di emissione, dopo invece inizi a parlare a voce alta, allora rimane pepe, e poi non ci capisce niente. Vai Gabriele, riprendi. Già. Ascolta un attimino, mettilo, abbassalo appena. Abbassato così e sono lontano 30 centimetri. Così è già buono e va bene. Ho messo il Mickey Gain a 8. Addirittura il Mickey Gain a 8, solleva il Mickey Gain, mettilo a 10. Così è a 10 il Mickey Gain. No, un bel alto, mettilo a 8, metti. No, anche perché poi ti raccoglie tutti i rumori di sottofondo, ti fa effetto camera e quant'altro, capito? Cappa, così come fa? Questa metà la manopola, la rotella del timer, del microfono, metti la metà. Ora è a metà con la linea che segna. A metà è? Cappa. Adesso l'amplificazione è poca. Metti il Mickey Gain al massimo, un attimo. Così mi chiede al massimo, io sarò lontano 25 centimetri, 30. Radio è proprio l'attività sua. No, voglio dire, allora, quando ha abbassato me sono fatto anch'io, era senza amplificazione. Anziché 10 lo fai a 8, 8 e mezzo, 9, e va bene. Così com'è? Sì, però tu quando dici così com'è, cioè tu devi avere sempre una timbrica di voce normale, non alzare la voce, perché se noi, ti ripeto, facciamo i parametri del microfonici in base alla tua modulazione, devi parlare sempre in quella determinata maniera. Se tu alzi il tono della voce, allora va a distorcere. Questo è quanto, vai. Ho capito, adesso provo a fare un passaggio così, 1, 2, 3, prova, San Pigo, Golfo della Sinara, brecco. Abbassa poco il Mekin, poco. Prova di 1, prova di 2, Tanner, più 3B, ora, cambio, San Pigo, Golfo della Sinara. Sì, vedi il radio, ha una voce che è inequalizzabile. No, vabbè, ma solo il parla normale va bene. Parla normale, come quando stai facendo un discorso normale, senza fare roba radiofonica, parla normale. Ok, andava vedda, prova, 1, 2, 3, prova. Lo vedi che cambia. E poi tu pensa che sia un FM, in AM sarà ancora più devastante la cosa. Minimo in AM, secondo chi c'è nel culo della Gadria dando un suo microfono. Hai visto? Il microfono a posto e radio a posto, vai tranquillo. E prendo subito, sono arrivate le mie signore. Andalex, già va bene. Quindi stai usando il Saturneco ora? Ehi, con il Saturneco sono Tino, come arrivo di segnale? C'è anche il lineare attaccato. Allora, se non vedo niente spaccato, ma prendo con le pinze il mio segnale perché qua è una radio un pochino rovara. Magari con l'altra arrivi in fondo scala di brutto, ma con questa no, perché è una radio per altre prestazioni, diciamo. E così invece lo stesso ieri era un amplificatore. Così sì, 918. Questo è accumulatore che sei amplificatore. Sì, diciamo che ti aumenti di 20 dB, dai, fai da 18 a 20, quindi non so se tu lo vuoi utilizzare o meno, se vuoi sprecare corrente o meno, arrivi bene uguale. Più meno è uguale. No, è più avanzato e più radio mentre l'altro, però voglio dire, quello lo puoi utilizzare quando c'è qualcuno che magari che non ti sente, lo accendi, capito? Ho capito. E poi dalla mia, se mai 2 minuti lo spengo, perché prima di tanto lo ho più. Adesso per dire sei 9-10, il tuo segnale non è stabile. Lascio andare ancora, poi vediamo un po' se abbassa o meno. Però sei sempre buono del radio tutto quanto, eh? Andava, ho capito. Comunque non è. Va bene, fai da 9,5 a 9,10 modulati, quindi sei già anche in picchi positivi e va bene. Io adesso per dire sono a 50 cm dal mic, la radio non so se è amplificata o meno, però io lo utilizzo così, capito? Non sono attaccato al microfono. No, anche io sono attaccato al microfono, immagina che sono distante dalla scrivania così, 40 metri al posto. Già va bene. Quanti watt stai dando ora? Non so, quando attacco il mare mi ha 50 watt. Solo? Ma è il BV? Nel rosmetro me lo segna, invece nel lineare segna 80. Questo cos'è, il BV131? Sì. Però tu, se non mi ricordo male, lui non me l'avevo accordato. Cioè tu vai, schiacci la portante, poi con la rotella grande devi andare 50 watt alla lancetta grande del segnalatore, diciamo, dai. Gappa, è così, è più di quello non va, più di 80 nel lineare. Adesso si è attaccato, più di 80 non sale quella lancetta. No, nel lineare no, invece nel S-Wattometer sale quella di destra a 5 e quella SRV sale a 0,2, c'è scritto. 5 vuol dire 50 watt, credo, se hai messo scala 10. Sì, è scala 10. Rosmetro wattmetro, sì, l'SVR va bene, il watt ti sta dando 50 watt, a quanto dice, io non so come l'hai collegato, comunque. Prova con la rotella grande, una volta schiacci la portante, poi con la rotella grande provi a muoverla e vedi se la lancetta grande del BV131 si muove o meno. Sì, si muove, ma la centro come tipo si ferma a 80, se no va, o appena, cioè torna indietro, là. No, non deve tornare indietro, deve andare sempre avanti. Quando vedi che torna indietro ti devi fermare, allora devi lasciare il picco massimo. Il picco massimo è 80, perché secondo come la muovi si sposta appena indietro. Perfetto, va bene. Ora l'ho messo nella scala 100. Magari ci sei. Come ti? Con la scala 100 l'SRV sale a... Non lo so. Comunque, Franco, Franco, ci sei, Franco? Gianni. Dimmi, capì. Ma come mai con la LAN 68 saliva a 100 watt quella radio, quell'amplificatore? Non si dice a me, non lo so. Con questa radio qua, la freccia sale a 80 nell'amplificatore. Invece l'SV meter sale la freccia di destra al numero 5 e invece la di destra, l'SVR, sale dove c'è scritto 02. Ok. Ascolta a me, ma l'hai accordato bene la rotella? Dell'amplificatore, sì, Gabby, l'ho fatta come hai detto tu, il bilanciamento a centrarlo come si ferma, da. Ok. Poi dopo che vai a girare torna indietro? Sì, è giù, sì, poco fa l'ha fatto. Ok. Va bene. Allora, mi fumo una sigaretta, ragazzi, riprendo subito. Ok, caparò, Germì, tanto sto parlando in verticale io. E quindi, Franco, non ci sei, Franco? Va bene. Così, pippato hai. Yes. E quindi niente. Capita, sta facendo quella pioggerellina fastidiosa, pungente. Guarda, io lavori e c'è il sole che spacca, vai in ferie e piove, che bel divertimento. Ed è vero, vabbè, comunque fottitini, a casa già si sta bene. Sì, ma poi quando sei sempre a casa, mamma mia. E vai che c'è radio, c'è la passione di questa radio, se no guai. E se mi sei impiccato la lampadina? Così ti piace vincere facile a te. Dice che si rompe. Sì, secondo me sì. Molti TV non ci vogliono. Secondo me no, perché il filo è grosso qua, eh. Ah, si strappa. Fidati che si strappa. Oh, via. No, non lo so. Stanotte brodo. Scusa un attimino, Gabi. Gabi, mi devo assentare 10 minuti, che devo fare cosa a Gabriele. Vai tranquillo, già sono a casa. Ciao, ti vedo. Sì, dopo, lascia, ciao, già sono qua. Ciao, accesso. Gabino, Tino. Ebbene, non c'è nessuno stasera. Ora che ne alle 12. Gianni, Sampici, sì. Gabino. Sì. Qui, ciao. Ciao, Vanni. Sì, a Gabino, leggermente, a uno. Ah, ecco, per prendere pulizia. Paghissimo, mi siete da ridere. Ogni tanto, basta non accumulare. A voglia, Vanni. E allora, tranquillo, tutto a posto. Questo è normale. Oh. Ma io ero così, mica. Me lo trovo bene, mio. E allora, un disastro. Ma piano, ti faccio. Che è pensare di 7 e un quarto so già. E guarda che tu vai sotto. Franco, mi senti? Brecco, ora ho a cambio. Quindi se mi tengo a te, che devo intendere. No? Capito, vai giù e faccio la lecce. Non mi colpi, Fra. Ora, ma non mi tende, che sono pavito. Eia, io già ti sento. Però, non lo so. Cosa c'è? Cosa c'è? Perché sei a voce? No, non sono a voce. Faccio un beato, No, sei un asso di radio. Non lo so. Sto provando il Galaxy. Stai provando il Galaxy? Ma mi chiede sollevato, eh? Mi chiede a manetta, eh? Adesso come mi senti? Adesso ti sento bene. Ho messo il tanner che mi ha fatto Gavino con l'altra radio che ho preso per questi e invece funziona. Va bene, quello del Thunder va bene. KK, c'è il Michigene che è a 9, il microfono è a metà del Thunder. Ok. E mi chiedete la radio e RFG lasciali al massimo, tutti, tutti e due al massimo. Mickey Game e microfono, no, il microfono lascialo com'è. Il Mickey Game della radio, e l'RFG della radio, tutti e due metterli al massimo. Gappa, amico, lì sono tutti e due al massimo. Ok, lasciali così. Il tono come ce l'hai? Il tono è numero 2. 2 più o 2 meno? 2 meno, a sinistra. Mettilo a mezzogiorno, a 0. Così è a 0, ma fammi di baccano. Salve, sì, cosa fa di baccano? E niente, boh, basta, banda per così, ti dico. A me ben bene le cose. Cos'è fra? Non ho capito. Ho detto gli altri, non li ascolti bene? Sì che li ascolto bene, però poco fa stavo parlando con Gavino e con Tino e ha detto che arrivavo troppo in confusione con la voce. Troppo alto? Oh, io ti ascolto benissimo, ti ascolto, siamo a due passi. Non so, allora ho attaccato l'SV meter e il lineare c'è attaccato. Il lineare segna 80 e invece l'SV meter segna 50. Non lo so quanto sto arrivando. Ah, buco, non lo so, non lo so allora questo. Va bene, avanti Vanni. Eia Vanni, allora praticamente nell'altra radio ci sono da cambiare due potenziometri, mi pare. Niente, sto provando un Galaxy Saturn 6 bande, però ho la convinzione che esce basso, perché non lo so. Ciao Vannino, togli il broccio. Chi è? A voglia, buonasera. Perché dice che l'altra radio c'ha quei due potenziometri che non funzionano e quindi compromette il funzionamento della radio. Cioè la radio funziona, esce in trasmissione, si sente in emissione, però esce bassa di watt, esce mi sembra con un watt e più di quello non va, perché quei due potenziometri non vanno, tipo l'RF Power, poi non mi ricordo che altro potenziometro sia. E niente, mettendo quei due potenziometri dovrebbe funzionare tutto bene, perché è una radio originale. Sì, Vanni, ciao Tino. Ascolta Vanni, una curiosità, maneggi anche schede di asciugatrice per caso? Ma male sto uscendo. Ma bella bella, c'è un po' di barana a casa, comunque. Se non mi capisci cerco di farmi capire. Ho detto, maneggi anche schede di asciugatrici per caso? Cosa? A volte va, a volte no, a volte se ne frega, a volte non accende, queste cose qua. Diciamo che ha 2 anni, usata ben poco, però la sto per buttare. Prima di buttarla sto cercando di fare qualcosa col bonus che c'è in giro, col bonus elettrodomestici, oppure se non ne vale la pena, insomma, ce la butto. Sì, quello l'ho capito, però io gli do l'ok, no? Lì si accende, fa tutta la manovra tipo, che ne so, sai che hai i programmi, no? Camicie, armadi e balle varie, le metti uno a caso, a volte accende la, come si chiama, per farla scaldare, a volte invece fa tutto il programma senza scaldare niente. Ho capito. No, vabbè, il radiatore mi dà come errore il radiatore che è sporco, invece io l'ho pulito, l'ho soffiato, l'ho lavato, perché di quelli straibili anche, no? Sembrava un radiatore di una macchina, quindi pulito bene, soffiato bene, fatto asciugare, rimesso, e mi dice che è sempre sporco. No, se vuoi ti faccio una foto, te la mando, Vanni. A me non mi costa niente. Se poi ho chiamato una cosa per un'altra, può darsi. Comunque tu immaginati un radiatore della macchina, è fatto così, con tante finestrelle, tante cose. Io l'ho tolto quello lì perché è estraibile, l'ho tolto, l'ho pulito, l'ho rimesso e non va. Questo è quanto. No, vabbè, niente di strano che sia il filtro, comunque fatto in alluminio. E vabbè, chi c'è avanti, chi c'è Gianni, poi chi c'è? Ehi cappa, ciao Tino, buonasera, ben ascoltato. Ciao Franco, scusa, era a titolo informativo perché prima di buttarla volevo vedere un po' se si poteva ripristinare questa roba. Tranquillo Tino, non ti preoccupare, avanti Gianni. E intanto ritorna già, sono un bel, ne ho da tutti i puri, ne sto sputtando da tutti i puri, non so più dove metterne, che è quello già vero. Andavè, Vanni, è bene, novità, viaggi finiti? Quasi niente. No, è grande, sarà di larghezza 20 cm per 30. No, è un cassetto che mi dice che quando è sporco bisogna togliere quello e pulire quello e basta. Poi l'interno, Vanni, non mi sono messo a aprire niente perché non è una cosa che so fare, voglio dire, si presentava abbastanza pulita perché mia moglie ogni volta che fa l'asciugatura la pulisce, poi c'è il filtro, insomma sono cose basilari, è una cosa che si è bloccata da oggi a domani così, infatti mi ha detto, ho messo l'asciugatrice però non ha asciugato, ho detto come si spiega? Sì, è stato più di 2 ore però non stava asciugando, con la roba dentro, e dopo acqua, tolto. Il filtro era pulito, l'abbiamo provata a vuoto anche alcune volte, e a volte ha fatto, a volte no, la maggior parte però era più no che sì. E alla fine mi sono fatto questa domanda, diciamo la verità, io sinceramente non so neanche quanto possa valere aggiustarla, nel senso che io l'ho pagata 280 euro, adesso non mi ricordo, ce l'ho 2 anni. E voglio dire, se per spenderci 200 euro me la compro nuova. Sì, a volte invece però bruciava. E il fatto è quello. E sta succedendo la stessa cosa della macchina mia. A volte l'aria condizionata funziona, a volte invece no. E quello è una cosa che so il difetto, però quando tu l'accendi sei convinto che parte, invece non parte. E questa è la stessa cosa. È un incognito. 100 euro, voglio dire, adesso vediamo, se per 100 euro io la, a me mi fa anche piacere, perché è nuova, meno per altro, è nuova, è 2 anni di vita, neanche 2 anni, e ascolta la garanzia, guarda, non voglio dirti bugie, forse 10 giorni fa. No, già ti ho capito cosa stai dicendo, scusate per gli amici. Allora, facciamo una cosa, siccome abbiamo trovato un'altra soluzione, no? Nel senso che questa qua io la do a mia sorella, lei se la vuole cambiare perché ne ha una molto più buona di questa, che ha pagato fior di quattrini, circa 600 euro, in confronto a questa è molto più... Però ha un piccolo problema, guarda, ha un rumorino di cuscinetto. Nel caso, per aggiustarne una, io aggiusto quella là. Al limite ti faccio vedere quella là, quando è, si cambierà il cuscinetto, ma è molto più buona. Va bene, grazie, Vanni è sempre disponibile, grazie. Vai, Franco. Vabbè, io riprendo e vi lascio perché devo andare a mangiare. Già ci sentiamo, dai, tranquilli, potete anche continuare la chiacchierata. Ma tu butti la pietra e nascondi la mano sempre. Cosa c'entra questo? Io vi ho lasciato parlare. No, nel senso che fai una toccata, poi non ti fai sentire per un mese. Cosa c'entra? Devo stare sempre nel radio. Sta diventando peggio Giovannino. Va bene, chi c'è? Gianni. Eia, gappa. Franco, non le mangiare, cosa mangi a fare? Mangia tutto troppo a Capodanno, a Natale, si sempre mangiare. Devo ringraziare, sono magro. Allora ci vuole per riconciliare i muscoli, allora mangia l'aglio, bevi vino e poi fai festa. E allora, va bene, dai. Ciao Tino, ciao Vannino e ciao Gianni, ci sentiamo, riprendi Vanni. Va bene Vanni, già sono in casa intanto, riannaggio ben qui. Avanti Tino. Sì, va bene, ciao Fra, dai, buona carica, tante cose belle. Fatti, fatti sentire più spesso, già siamo sempre qua, già lo sai. Ok. Sì, ciao, ciao. Alla prossima. E niente, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. È così, Vannino, Vannino, Gianni. Va bene. No, a me, guarda, Vanni, me ne sono successe di tutto e di più, guarda. A partire da due condizionatori che nello stesso tempo si sono rotti. E quindi sia quello di cucina che quello di salone si è rotto. E adesso rimane così. È pure il vapor, è il compressore, è la caldaia, è la macchina di mia moglie, la macchina mia. Di tutto e di più, di tutto e di più. Allora, io ho chiesto a uno, mi ha fatto cambiare, così c'è un amico che mi conosce, mi ha detto prova a cambiare il, cos'è, il coso di spunto, dai. Fatto e non funziona. L'altro invece usciva a fumo, odore di plastica bruciata. Alla fine l'ho abbandonato, l'ho spento e ciccia. Si accende e quando va per andare in modalità di fresco, diciamo, si spegne. Sì, dai, è vecchia, ma ha fatto tanta strada, tanta strada, anche se mamma l'aveva pagata in lire, addirittura l'aveva pagata 2,5 milioni in lire, quindi tu immaginati quanti anni ha. Purtroppo sì, adesso non so se rientra in garanzia per quanto riguarda l'assicurazione della casa. E allora, a me per dire, Vanni, chi mi ha controllato questo mi ha detto che non ha riconosciuto il caldo e quindi si è messo a freddo. Cioè, non ha riconosciuto il caldo e si è messo a caldo. Ho detto, già c'è il caldo, anche il caldo deve fare. E quindi si è bruciato e sta bruciando all'interno. E vabbè, lascialo così, lascialo. Non so cosa dirti. Il problema è che si è rotto. È vero, vabbè. Cosa vuoi che ti dica? Adesso, quando sarà, se abbiamo le possibilità, ce lo cambiamo. Se no, deve rimanere lì fermo e vediamo cosa fare. Tutte le macchine, di tutte le marche, o comunque una buona, cioè, una buona parte delle macchine in commercio, avevano il foglio sopra ed era coperta la marca, però si intravedeva. E avevano dei forni e dei freezer, delle celle e dei forni. Lo sai che cosa simulavano questo? La temperatura. Cioè simulavano per esempio una macchina d'estate con 50 gradi fuori, capito? Quindi mettevano la macchina per vedere dove avevano questi punti massimi o minimi, per dirti no. Quindi pensa un po', monitorata a 24 ore. Infatti a queste macchine che poi noi abbiamo preso qui, perché le caratteristiche a me mi avevano dato un po' di sicurezza, erano modificate, cioè queste lavoravano anche con temperature estreme, capito? Erano fatte apposta per villaggi e così via. Infatti questo mi aveva detto, noi lavoriamo solo con villaggi in Spagna, in cose che le temperature sono molto alte. Quindi tranquillo che le macchine sono fatte per lavorare bene. Sì, ci credo, Vanni, ci credo. Infatti quando hai iniziato a dire sicuramente ha conosciuto il caldo e tu devi vabbè sarà così, buh, vabbè rimane lì, se la gioco tu di gas praticamente, no, come per dire, cazzo mi viene a raccontare cazzate, così. La cosa quando si rompe, vabbè ciccia, vuol dire che si è rotta e basta. Suppongo che queste prove qua vengano fatte certamente, perché come tutte le cose, anche le macchine quando le mettono sul banco le faranno alcune prove, no? La massima velocità, quanto può resistere per dire sul banco e così via. Certo che le fanno queste prove, poi se voglio dire, se il motore è posizionato in determinati come si dice, marchi, questo non lo so, cioè voglio dire, se sono gli stessi motori mi parlo. Scusa già, sì, ma stiamo parlando di macchine che hanno al minimo 20 anni, capito? L'on-off è a quell'età lì, almeno, ok? Quindi stiamo parlando anche di una vita fa, è normale, come la macchina tua che ha 300-400 mila chilometri e che poi dice, ma sì, arrivano e poi si fermano, non è che chissà cosa è successo, perché poi te l'ho detto, se vuoi no provi anche il compressore, perché sicuramente è lì il problema. se si spegne, se la macchina deve, vuol dire che il comando, ma perché l'onofo agisce direttamente sul contatto al motore, capito? Perché si è alimentato dall'interno e dava dal rediste, se dava il comando al compressore a andare, se quello non è, o ha bruciato il relè o ha bruciato il comando, bisogna, insomma è un casino. Però per esempio a quelle macchine lì, se tu hai una macchina interna di on-off, sono tutti adattabili, ok? Di quell'età lì. Puoi mettere anche la macchina interna, diverse marche, non è importante, e funzionano lo stesso, già sono aggiuvati lì, e a uffa, capito? Perché non hanno le letture, che invece adesso queste con l'inverter è un disastro, non sempre sono comunicanti la macchina interna con l'esterna. Ho capito, Vabbè, sì, questa ha più di, cavolo, ha più di 20 anni, 20, forse anche 25. Quindi voglio dire, lì se le ha fatte, i suoi caldi, i suoi freddi li ha dati. E va bene. Ma anche l'altra avrà più di 20 anni, era una Stellar, non so se tu l'hai conosciuta quella marca. Si chiama Stellar ed era il rivenditore addirittura era l'Eurospin, ne avevo preso otto e forse questi qua sono quelli che sono durati più di tutti. Ah, già ne avevamo molti in parcheggio, cara. Dimmi Gianni, dimmi, poi riprenditi e seguo un discorso. Beh, Gianni, allora faccio un panino. Sì, perché quelle macchine lì, essendo meccaniche, si fa per dire, è come le lavatrici di prima, no? Adesso con l'elettronica, pum, su, ciao, e butta via tutto. Quelle funzionavano sempre, non avevano grandi problemi, capito? Hanno sempre puntato tantissimo, cosa che adesso non lo fanno le macchine nuove, però tieni conto che, siccome siamo nell'era del consumismo, se a te ti vendo una macchina ti fa 30 anni, ma andrà a vendola, hai capito? Ma lo so, ma infatti io ho sempre detto una cosa, allora le macchine vecchie vanno bene, perché vanno bene, sin quando si rompono, giustamente, però prendi per esempio le macchine che stanno facendo adesso hanno una vita, cioè tu prendi qualsiasi tipo di elettrodomestico che tu lo compri, ti fai la garanzia per 2 anni, dopo 2 anni li fascia, perché così? Infatti è così, perché è fatto per quel motivo, capito? È fatto per cercare di vendere sempre, ma tu prendi, ti faccio un esempio, no? Tempo fa sono stati ai meeting che facevano l'aggiornamento di materiali, sai, era gli scaldabagni per esempio, no? Infatti tu vedi gli scaldabagni a 10 anni non li fanno più, è difficile anche che trovi quello da 5 anni adesso, non lo trovi più, proprio per questi motivi. Infatti a me, io sono passato un po' per con la C più grande, nel senso, perché è successo che loro parlavano proprio di queste scaldabagni a 10 anni, andranno via e così via, no? Perché comunque sia, dice, noi prima ci basavamo sul discorso che tu la garanzia non te la tieni 10 anni, dovrà mettere una garanzia 10 anni con tutti i casini che hai a casa tua, hai capito cosa voglio dire? Quindi è difficile che trovi una garanzia dopo 10 anni, perché insomma ho sbiadito e comunque sia muore così. Però io lì no, spendo il togo, e dai, io veramente quando è così a qualche amico gliel'ho preso, ho fatto la fotocopia e l'ho messa sopra il calabaglio. E mi ha detto, è un guglione, sì, no, perché mi ha detto, così non lavorare anche lì, mi ha detto, lì, quando lo cambierà un altro scaldabagno? Cioè, mi capisci dove era il suo punto? Noi lo facciamo per questo motivo, e infatti poi, vedi, adesso non lo trovi più, non ne fanno più, assolutamente. È vero, aspetta, facciamo entrare, poi ti dico cosa è successo a me. Gianni, ci sei? Va bene, Gianni non vuole entrare, magari incorrigi. Allora, a me, Vanni, è successo così, ho preso questo scaldabagno, tempo fa, la garanzia era di 5 anni, il tipo mi fa, la vuoi prolungare? Detto, di quanto? 10 anni, sì, va bene, 10 anni, ti pago la differenza, quello e quell'altro, ok. Credimi, Vanni, ci mancava un giorno a scadere 10 anni, beh, lo sai che mi hanno cambiato. Sì, anche a me è capitato, anche a me, di mancare un mese mi ha cambiato lo scaldabagno, mi ha dato una garanzia di un mese con lo scaldabagno di 10 anni, però, perché lo scaldabagno, anzi, la volta mi pare mi aveva dato un 5 anni, perché possono anche darti uno scaldabagno di 2 anni in cambio, che copre già quei 10 anni che tu hai pagato, però te lo cambiano, vai fuzza del giambero, non c'è verso, è così. Adesso arriva 2 anni qualcosa e sei fottuto, capito? Sì, ormai non ho... Ormai non dura più niente, tu sappi che ogni 2 anni era speso, lo scaldabagno, o dello scaldino. Lo scaldino è lo stesso, Saber Duval, come si chiama? Saber Duval, no? Pagato 150 euro o 170 se non mi ricordo, piazzato tutto quanto, mi è durato pochissimo, è cambiato anche quello. Sì, perché sono fatti per così. Allora, l'unica cosa è che tu metti una nube magnesio all'interno e ti dura un po' di più, tutto lì. Però, capito, ti dura più di 2 anni, sicuramente, anche 3-4 anni. La nube magnesio, la metti dentro e vedi che non lo buca facilmente, cioè dura di più. Ah, ma quello, sì, mi ricordo, l'avevamo comprato assieme anche, ma dentro lo scaldabagno tu stai dicendo? Sì, poi lo devi piazzare all'interno dello scaldabagno. Io, guarda, ne ho uno da 5 anni qua, non so se 5 o 2 anni, che ho già tutta la resistenza già pronta, montato, e che non mi ricordo mai di svuotarlo e metterlo dentro. Però se domani riesco a avere quei 10 minuti che mi servono, svuoto lo scaldabagno, sai cosa faccio? Ce lo piazzo dentro e vedi che dura di più, anche se poi la caldaia o il pannello solare non è che me la fotti assai, questo lo tengo e non si sa mai, capito? No, io invece l'ho preso nuovo perché mi si era bucato, era in garanzia, l'ho piazzato, credo che non sia neanche pieno di acqua adesso, è ancora vuoto, credo. Mi ero ricordato quell'affare là che avevi preso, guarda che cose calvaniche sono, così è. Sì, ecco sì. Paghi 10-15 euro, adesso non so cosa costi, ne ho un paio ancora, quelli per i pannelli solari esterni, quelli grandi. Lo metti e a voglia, dura un bel. Già mi ricordo. E invece nella caldaia cosa si può fare per una caldaia a gas, quella, lo scaldino, come lo puoi chiamare? Lì devi mettere il coso, il degas, come cavolo si chiama, ma è tutto bianco. Che serve proprio per il calcare, affanculo, c'è anche il telefono su, non lasciate, se no te la vedete, aspetta, mi vado a prendere, ma 30 secondi proprio, ti dico cosa è, perché è una vaschetta che c'è il, boh, non me lo ricordo, ma c'è sempre il nome. Sì, ho capito, ce l'ho anch'io, il decantatore, dai, già ho capito, del calcare, ci metti quelle vaschette bianche, dai, che poi con il calcare si consuma. Infatti quello lì, basta, non puoi farlo. Ma io l'ho comprato da internet le ricariche e ne ho comprato 10. Però ho notato che dopo 2 giorni si consuma in fretta. Quello originale invece è durato più di un mese. Non lo so. Cosa hai combinato? Però dovrebbe durare un po' più di 2 mesi, a voglia. Capito? In ingresso l'hai messo dell'acqua? Sì, no, a me il lavoro me l'hanno fatto. Ma l'unica cosa da fare è quando si consuma questo lo cambi, cioè praticamente deve essere bianca la vaschetta, giusto? Cioè acqua normale e basta. Sì, è bianca, il materiale è bianco, però si abbassa il livello e se lo consuma, no? Allora ti dirò di più, che l'ho cambiato, dopo un paio di giorni si è consumato, quindi lo devo ripiazzare praticamente, lo devo cambiare nuovamente. Però è strano che se lo mangi in 2 giorni, non è possibile. Poco Ivanni, poco mi è durato, poco, fai guarda, 4-5 giorni mi è... l'ho riguardato, cazzo, è già consumato là. Non so cosa dire, io non ne ho, per esempio, io c'ho la caldaia, c'ho la biomassa lì, non ne ho mai messo, di solito va messo su caldaia a gas, quella roba lì. Non lo so, adesso domani con tutta calma, tanto ne ho ordinato 10 cartucce, ma sicuramente quelle che ordini da internet magari lasciano il tempo che trovano, nel senso che sono meno buone di quelle di Tecnomat. E tu ne prendi una, la Tecnomat te la provi e vedi la differenza, se poi ti costa, ecco, vieni a comprare quella da Tecnomat, no? Ma io ce le ho, ma non le ho mai montate, ne ho un paio recuperati nuovi, ho i nasi, filtri, filtrini per caldare, ma già me la fute. Io la via dura anni, capito? Durata anni. E dura anni, questa per esempio, non lo so come ancora l'acqua, gli impianti ce li ho da quando ho fatto la casa, immaginiamo, di qua. Infatti, vabbè. E dove ho piazza? Comunque hai visto che ho fatto qualche giro, sì? Sì, in Giordania ero l'altro giorno, sì. Quest'anno ce ne siamo andati, quest'anno, vabbè, siamo andati in Giordania, invece a Petra e sai cos'è, sì. Sì, cosa fai in Ungheria? In Ungheria va bene, ma bisogna anche andare fuori. Oh, se fai, allora, se hai le possibilità, Vanni, fallo ben volentieri, ti trovo tutti gli anni, per carità. Se ci sono le possibilità devi andare, perché tanto poi quando ti ritorna l'occasione. Ma non stai rientrando in 145, no? No, ho abbassato il tralicci perché ho problemi ai cavi e ancora, sì, però c'è qualche antenna per andare, ma non v'è mai nessuno, sai, non v'è mai caffè, e su quale frequenza sono? Cioè, questo è l'R2 alfa, l'altro è qua, qui c'è qualcuno, eccolo qua, eccolo qua, hai capito? 525, sì. Ma adesso in questi giorni, beh, vabbè, ma normalmente non c'è mai nessuno. Capito, chi c'è? Raramente li sento, quindi non ci sto entrando, me la putti nulla. No? Poi adesso sono qua perché stavo facendo altre cose, se no mi sono trattenuto anche a... No, normalmente no, già. Sì, sì. Oh, mentina, smettila. Va bene, no, poi la 27 è la 27, non è che lasciamo perdere, va. Guarda, che il discorso è che la frequenza è tutta uguale, non è che la 27, la 37, non c'entra niente, è tutta uguale. Qui puoi dire due stronzate in più, l'altro insomma ne puoi dire due in meno, se no se la bisa ti dire, oh scusa, ma capisci a me? Poi quando pensi di fare l'intellettuale c'è gente dietro che ti ascolta e che insomma fa un'opinione diversa. Capito dove sta il problema? Qui siamo un po' arrangioni, da, andiamo così. Qui va meglio, va bene. C'è più libertà di parola, c'è più... Poi giustamente, quando si fa un questo tranquillo e sereno, si scambiano due parole, quattro chiacchiere, fa piacere a chiunque. Basta che insomma uno si comporti bene, non come l'altra notte. La famiglia del vino e iniziava a prendere in giro qualcuno, non so neanche chi era, ma non è che siamo stati tanto, siamo spostati direttamente in PMR, ma lascialo di FTD, sono finiti quei giorni di guerra. Ma a me, guarda, sinceramente non me ne frega niente, tanto adesso c'è un po' più di tranquillità, ma ci sono stati i periodi che comunque davano fastidio e qualcuno si incazzava, ma va, meno appunto, non ho più tempo manco per me, pensa siamo pugliati a spiegare con questi che entrano, non entrano, possono entrare, a me non me la putti nulla, io sono in regola, siete pugliati solo a fare i buchi, capisci? Ma certo, allora. Ora ti si dice, andare il rischio tu, o io me ne frega. Poi, vabbè, insomma, non c'è più niente, comunque, insomma, ormai ci sono, diciamo, situazioni diverse, altri hobby, altri passatempi, altro tutto, e quindi cosa va? Già, è vero. Bene, lavorando stai con me, sì, sei sempre lì in zona di cosa, oppure per i fatti tuoi adesso? No, adesso sono per i fatti miei, per montare. No, non l'ho telefonato ancora, non la c'è più gana, non lo so, mi hanno chiamato l'altro giorno e uno ha detto perché deve essere parlato con loro, no, insomma direi vada a sé, comunque così. Ma come so, mi manca un paio d'anni, vado a mia pensione, ma comunque posso anche tranquillamente farmi qualche lavoro qua e starmene qua. Capito? Ah beh, vedi un po' tu, dai, dove già lo sai, sei grande, vaccinato, sai cosa fare, giustamente seguirei le orme della cosa più facile e più buona per te, no? E lo sai, cos'è là, puoi lavorare là e fare anche qua, capito? Quindi hai 100 euro in più. Vabbè, quello... Però là magari ti comporta anche nuove conoscenze, nuovi spazi, nuove tante cose. Sì, no, non vado per amicizia, vado baridina, l'amicizia te le credi, le conoscenze sono finiti quel tempo, capito? Ma lasciano per i soldi. No, beh certo, anche io cosa c'entro, io ho mollato la mia ditta. Non so se hai saputo, dopo 5 anni l'ho mollata perché ho visto che gli interessi erano solo ed esclusivamente a quello che abbiamo fatto crescere e agli operai è rimasta sempre modello base, alla fine fai 2 più 2, no? Perché nel senso che sì, mi hai fatto capoposto, mi hai fatto coordinatore, mi hai fatto responsabile della sicurezza, mi hai fatto questo, mi hai fatto quell'altro, però lo stipendio è rimasto lo stesso. Cioè tutti i cacchi, scusando la frase, sono sopra le mie spalle, se succede qualcosa la responsabilità è la mia e tu invece te ne esci pulito e a me non mi dai niente, no? Non funziona così, primo. E poi gli ho detto, poi per venire a lavorare da te, detto, mi stai dando 2000 euro, ma ce ne sto mettendo 300 per venire a lavorare a te. Voglio dire, perché queste 300 euro non rimangono in tasca mia anziché stare buttate lì sul gasolio? Dammi la macchina, dammi qualche cosa, me ne incontro, se no io me ne vado. È stato un po' lì per lì, non ce la faccio, molto bene. Allora sappi che da oggi io ti do le dimissioni, è diventato bianco. Oh, ma bravo, tutti lo stesso, tutti uguali, ma bravo, 100 euro. Lascia stare, dai, lo sappiamo che come va a finire sempre. Purtroppo è così, sono ingordi. È così, Vanni, cioè voglio dire, tu lo sai benissimo, quando vai a fare un lavoro, fai un preventivo, ti dici, cazzo, quanto è caro, ma mai così caro, vero? Cioè, la vita sta aumentando, tutto cosa sta aumentando, io devo stare sempre quello sottomesso, con tutte le responsabilità, e salvare questo a te, no, non funziona così. Io gli ho portato avanti anche un lavoro lì a Sassari, dove hai visto che c'è il Conti e poi c'è il tappettino, quella strada lì l'ho fatta io da solo, credimi, a volte è venuto un mio collega a darmi una mano, ma la maggior parte lo fa solo, poi alla fine ha mollato perché a quanto pare non l'hanno pagato, quindi le ultime cose che stanno facendo adesso. Comunque, prima ancora, tutta quella strada, tra fare il tracciamento, togliere tutti gli alberi, l'ho fatto da solo io, messa a livello, lascia perdere. Ed ero responsabile di quel lavoro lì io, quindi perché essere responsabile e poi magari avere delle colpe che no, se tu lo vuoi così, se no ciccia. Ma sono tutti uguali, vabbè, a me già mi pagava bene, non è che ero, insomma, tanto io ho chiesto quello e quello mi ha dato, se no la gente non ci frega. Non li voglio responsabilizzare, però ho avuto il problema con l'altro, capita che l'altro aveva fatto responsabile, si è gasato, uno di quelli che, cioè, poi tutto un cazzo di treno, ma comunque sai com'è, a me non è che mi interessa, a me, però abbiamo avuto qualche piccolo problema e quindi da lì, insomma, ho detto beh, a cosa va una cosa, non picchiedivi e boh, perché comunque poi alla fine succede questo. Però prima di andare via a ottobre, perché abbiamo chiuso il 15 era lì, comunque non ti preoccupare, sai come te, perché il problema è sempre uguale, quando tu hai una persona valida è un disastro, sai com'è, no? Quindi tieni a averla, e però la persona valida sa i suoi problemi, parlano tutti, quelli più ignoranti non aprono bocca perché sono troppo donti, ma quando tu hai a che fare una persona brava non puoi andare a dire le cose, quello sa già il fatto suo, capisci cosa voglio dire? È inutile che venga lì a dirti a te come va il mezzo che ti siede sopra, non vai manco a partire la bicicletta, mettiti da parte, no? Sai, sono successe queste piccole, e poi insomma un po' qualche volta degenerato così a fanculo, è andata a finire così. Poi hai detto beh, fai una cosa, andate dei picchietti, viva, non se vengo lì a farrami con un marraggio, ma lei deve spiegare, io non devo spiegare niente, quello non capisce cosa io, se io parlo di idraulica, quello idraulica non ne ha mai visto, devo parlare di elettricità, ma dove l'ha mai vista, capito? Quindi io non devo spiegare niente, poi non posso venire qui a spiegare niente a nessuno, io non vengo a spiegare. Cioè, sono altri questi piccoli problemi, poi si faccia sentire, dice lei fa il suo, l'altro fa il suo, e io dico vabbè, ah, ci sentiamo, però ancora oggi non l'ho telefonato, non gli... però prima o poi magari dipende come mi trovo, magari lo telefono, ah, non lo so, dipende, poi volevo capire anche un po' tutto. Canto medrasi, com'è, come non è che vado più così, basta, non ne voglio più gare per la gente. Hai ragione, Vanni, io lo stesso, Io quando ho mollato sono entrato in questa ditta, che è una ditta abbastanza forte, una ditta insomma importante, e c'era già una scavatorista che è dell'età mia, no? E c'erano altre tre o quattro che praticamente usavano mini escavatori, non usavano macchine grandi, no? E mi avevano chiesto che macchine usi, ho detto io ho usato questo e quest'altro. E allora fa una cosa, prendi quello là, lo sai prendere, lo sai portare, ho detto oh, vediamo adesso, fammi sedere e poi vediamo se lo sappiamo portare. Mi sono come carrellino per dire che tu lo sai che io sono 30 anni sopra le macchine e mi dice se lo sai portare. Quando ho fatto il lavoro ho detto no, fermo, tu rimani in oghi e tu ti lanci la base. Quelli che erano bravi li ha messi negli scavatorini piccolini a fare le piccolezze, capito? Sì, è così, vabbè, però io per esempio io faccio tutto, l'altro era un barista, cioè un barman, è entrato in culo al proprietario di prima, si pare, quindi l'ha messo lì e io ho mandato in culo a lui, al principale, una volta al principale per modo di dire, no, quindi ci siamo un po' allontanati, ma a me non me ne ha frutti nulla, non hai capito che io, se ti devo dire che si è donto, te lo dico a te, se non c'è verso, dice ma lei deve essere diplomatico, no, ho finito il tempo della diplomazia, hai giudito, cosa diplomatico? Se uno è un asino, cosa dico? È un cavallo, tanto se lo mettiamo a correre l'asino e il cavallo, ce ne accorgiamo chi è l'asino e chi è il cavallo, è inutile che stiamo lì a dire che è bravo anche lui, io non ci riesco, non capisce niente, allora mettiti da parte, capito? Non voglio che venga a dire a me cosa io, cosa no io, ma vaffanculo, vabbè, non la ciofa. Sì, è vero, ma vabbè, d'altronde così, ma poi sul campo se ne accorgo, anche perché io me ne stavo per andarmi, prima di andare in ferie a Natale, mi hanno detto, allora ti cosa fai, vieni il 30, il 29 e il 30, ho detto no, forse non avete capito niente, non vengo nel 29 e nel 30 non vengo più, perché io ho contratto, non ne firmo più, come, adesso proprio adesso che ti abbiamo rinnovato il contratto per altri due mesi, forse non avete capito un cavolo, che voi l'anguria ve l'avete assaggiata, mangiata e bevuta, adesso le cose sono chiare, se mi volete mi dovete assumere a tempo indeterminato, e come dico io, non come volete voi, se no, arrivederci e grazie. Sì, no, a me non mi interessa, il discorso di a tempo indeterminato a me è proprio una cosa che io non voglio, e infatti se adesso, vabbè, se lo chiamo, dico no, guarda, noi facciamo il contratto a due mesi, dico, perché se le cose non funzionano come dico io vi mando in culo a tutti, non gli dico così, ma glielo faccio capire. Ah sì, una volta che terminato il contratto ti mandano voi, quello è poco ma sicuro, infatti io ho giocato anche con la carta, perché si parlava che dopo un paio di cose che avevo fatto, di mesi che avevo fatto, mi dovevano assumere a tempo indeterminato, invece non hanno tenuto la parola e stanno sempre, ogni due mesi ti fanno il contratto nuovo, capito? Alla fine basta, non è che devo stare due mesi, io se devo prendere un prestito non posso prenderlo io così questo prestito, perché sono legato a voi così, a tempo determinato, capito? Sì, da quella teoria ha ragione, ma invece a me è rovescio, a me non mi interessa proprio, non devo prendere nessun prestito, non mi serve un prestito, non mi interessa, che non ho bisogno di grandi cose, capito? Quindi poco mi interessa, a me quello che mi interessa è quando a me mi stracchi io mi mando. Di solito ho sempre fatto così, gli ho detto guarda io gli finisco la stagione, per esempio sino al 15 ottobre, vabbè, sino al 15 ottobre, allora il contratto sino al 15, e così ho fatto quando era al 30 e così via, no, niente lungo a me di stare lì a viaggiare e lì e giù, capito, la macchina. Ah, fatti nulla, io mi prendo, faccio un periodo, capito, a casa e mi faccio i fatti miei, no, è più tranquilla la cosa, io tanto sempre a 67 mi mandano in pensione, che se io verso altri 2-3 anni contributi, mi danno sempre i ghissi, non è che mi danno, capito, non mi danno nulla. Allora faccio diversamente, quindi lavoro quei mesi, mi prendo un po' di soccupazione, nel frattempo il voto di battimento, capito? Sì, è vero, non è che se fai di più ti danno di più, no, quello ti danno, purtroppo è quello, ma siamo in una gabbia di matti, purtroppo è così. Io mi ricordo sempre quando andavano, sono andati, uno era andato, un mio collega di lavoro, chiamiamolo collega per modo di dire, ma non era neanche collega, comunque era un ex poliziotto, a 45 anni in pensione, a 45 anni, e con il soldo dell'equivazione si aveva comprato un escavatore. E così adesso ho capito, a parte che questo governo non ne va a vedere, vorrebbe essere in meta assoluti, e caro Botta, ma come cazzo tutti i brumisi adesso il gasolio costa più della benzina, cioè ma tu pensa che parliamo dei mezzi pesanti, cioè ma tutti, io non capisco, ma è possibile che non riusciamo a distinguere, cavolo, a me non mi interessa di capacchi d'usè, capisci, a me il poco mi interessa, a me mi interessa, e se tu ti voto per quello devi fare, capito? Non solo benzina, ghigno, rastro, promesse, sì, arriva, poi le promesse della legge Fornero, cazzo, ti ha appena fatto, ma io, ma perché devo fare a 2 mesi in più? Cioè, non basta, ancora di più, cioè, lasciamo perdere, vabbè, dai, adesso me ne vado a mangiare, mi sta chiamando, ok, dai, ci aggiorniamo al limite, ciao a tutti. Andavi, ciao Vanni, ciao, un abbraccio, saluto, tanti auguri in famiglia, dai, ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao Vanni, buon appetito, buona cena e buon tutto, alle prossimine, ciao ciao. Ah, svegliato di sì. Ieri mi ho fatto fare una spianatina, è vero, sto curto sui genitori. Avete ragione, va via, ce la mangiano un panino. Vabbè, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Miau, adesso tocca anche a me, dai, sentiamo dopo già. Anche io mi allontano un attimino. Se ci sia dopo, dai. Gappa gappa, ciao T, buon pranzo, buona cena e buon tutto, magari ci sentiamo dopo. Sì, va bene, ciao ciao.